Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda le audizioni del ministro Giovannini e anche del ministro Zanonato, arriveremo ad alcuni aggiornamenti. In realtà, per quello che riguarda l'IMU, si va verso la sospensione non solo per le famiglie, si studia una misura anche per i capannoni. È un intervento tampone, diciamo, per quello che riguarda la cassa integrazione. In realtà la notizia più forte di oggi, come già vi hanno ricordato i nostri GR, riguarda l'economia europea, la crescita, o meglio non crescita dell'economia europea. Perché? Perché a questo punto non è solo il presidente francese François Hollande a chiedere alla Commissione europea di dare più tempo ai paesi per ridurre il deficit sotto il 3%, in modo che questo tempo possa essere messo al servizio di riforme della crescita. Hollande ha anche escluso un asse con l'Italia contro la Germania, sarebbe contro l'interesse dell'Europa e anche dell'Italia e della stessa Francia. Lavoreremo assieme con uno spirito costruttivo nell'interesse dell'Europa. Ma perché Hollande è così preoccupato? Beh, perché la Francia è ufficialmente in recessione, con i dati diffusi oggi sui primi tre mesi del 2013. La frenata era stata molto brusca negli ultimi tre mesi del 2012, lo abbiamo detto in tutti i modi, e in Italia basta guardare cosa è successo a consumi, andamento della produzione industriale, dei fatturati, e il dato di ieri sui prezzi delle case va nella stessa falsa riga, dicevo. E per quello che riguarda l'economia europea, a questo punto l'inizio del 2013 è stato al rallentatore, col freno a mano tirato. Complessivamente nell'area dell'Unione Europea a 17 il PIL è calato nei primi tre mesi dello 0,2%, vuol dire dell'1% in realtà rispetto ai primi tre mesi del 2012, meno 0,2 rispetto agli ultimi tre mesi del 2012, ma anno su anno è meno 1. Con, per quello che riguarda trimestre su trimestre, la Germania che fa più 0,1%, e tra l'altro la Germania ha visto anche ridurre il dato sul PIL tedesco negli ultimi tre mesi del 2012, meno 0,7%. La Francia fa meno 0,2%, ecco perché dico che entra ufficialmente in recessione, l'Italia meno 0,5%. La Spagna meno 0,5, questo sempre trimestre su trimestre. Tra l'altro il potere d'acquisto delle famiglie francesi ha registrato nel 2012 un record negativo dello 0,9%, record appunto quanto a calo del potere d'acquisto delle famiglie francesi. Veniamo all'Italia, perché in tutto questo l'unico paese dove l'economia va bene e meglio del previsto è la Gran Bretagna. Sarà un caso, ma non è sottoposta ai vincoli a cui sono sottoposti i paesi che stanno dentro l'euro e ha avuto politiche un po' più così accomodanti sulla crescita. Allora, più 0,5% infatti la Gran Bretagna. Ma veniamo all'Italia. Allora, nei primi tre mesi di quest'anno meno 0,5% sugli ultimi tre mesi. Il che vuol dire meno 2,3% rispetto a un anno fa. Vanno male industrie e servizi, aumenta un po' l'agricoltura. La cosa che fa impressione, lo dico subito, è che per la prima volta nella storia, da quando conosciamo le serie storiche trimestrali del PIL, cioè dal 1990, e quindi da 23 anni a questa parte, per la prima volta l'Italia ha fatto 7 trimestri consecutivi di calo del PIL. Sette trimestri consecutivi, insomma la dice lunga, perché siamo quasi ai due anni, per cui cioè, su questo attenzione, perché il dato al di là del meno 0,5, meno 1, il calo già acquisito nel 2013, cioè se d'ora in avanti noi dovessimo fare zero come variazione, chiuderemmo comunque l'anno con un meno 1,5%. E qui fatemi aprire una brevissima parentesi, poi passiamo alle altre notizie. Le previsioni, sa che toccherà reinvitare l'astrologa fra un po', le previsioni anche questa volta sono state un terno al lotto, perché sull'Italia nel 2013, un anno fa, a gennaio del 2012, il Fondo Monetario prevedeva un'Italia meno 0,6, addirittura ad aprile, un anno fa esatto, il Fondo Monetario diceva farete nel 2013 un meno 0,3, per cui tutto sommato un anno stagnante. Anche l'OCSE, addirittura l'OCSE, a marzo del 2012 diceva che l'Italia avrebbe fatto più 0,5 nel 2013. Il governo italiano, il governo Monti, ad aprile del 2012, anche lui sosteneva che quest'anno avremmo fatto un più 0,5%. E allora, visto che già siamo a bocce ferme, a un meno 1,5, insomma, toccherà rinvitare l'astrologa. Vai con le notizie in breve. E ripeto, di questo parleremo nella seconda ora del programma. Non c'è polemica, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, anche sulla pagina di Focus Economia Facebook. Non c'è polemica, le previsioni si fanno e si possono sbagliare. Devo dire che anche questa volta si dimostra che questo cavolo di ripresa che doveva esserci nel 2013 non c'è. Quest'anno chiudiamo in recessione secca, netta, non solo noi, ma chi se ne frega. Giustamente un ascoltatore dice: beh, con questo PIL abbiamo fatto miracoli a tenere il deficit sotto il 3%, quindi ad avere, come dovrebbe essere a giugno, chiusa la procedura di infrazione contro l'Italia. Sì, è vero, perché quando il tuo PIL cala più del previsto, il rapporto deficit-PIL è un rapporto, appunto, e devi ridurre il deficit ben di più, perché appunto quello che conta è il risultato, è che il rapporto tra deficit e PIL sia sotto il 3%. Devo dire che ha fatto miracoli il popolo italiano con le mazzate che si è preso tra aumento delle tasse, del prelievo fiscale, riduzione di alcune spese, tagli lineari e quant'altro, e anche esodati e aumento dell'età pensionabile. I miracoli li hanno fatti i cittadini, diciamolo tutti. Il governo dovrà decidere anche oggi, era in votazione la fiducia sul DDL alla Camera per rimborsi alle imprese, ricorderete, sono oltre 90 miliardi, il governo Monti come ultimo atto quasi aveva deciso di pagarne in 2 anni 40 miliardi, e dicevo oggi alla Camera si votava la fiducia sul disegno di legge che poi passerà al Senato. L'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia, ha annunciato però che verrà fatto un vero e proprio monitoraggio sull'avvio dei pagamenti. Ha detto anche il Presidente Buzzetti, se venissero pagati tutti i debiti della pubblica amministrazione avremmo un punto percentuale di PIL in più. Solo sul fronte dell'edilizia sono 20 miliardi quelli che le imprese dell'edilizia aspettano per lavori già eseguiti da comuni, Stato, enti locali, ed è preoccupato Buzzetti che vengono trovati i soldi anche nel 2014, perché i soldi stanziati per il 2013 rispetto alla massa complessiva, anche solo dei 40 miliardi, non dico dei 90, ma anche solo dei 40, sono poca cosa. Sentiamo al microfono della nostra Katia Caramelli. Cercheremo di monitorare con attenzione, anche su mandato del vicepresidente Tajani, per il Parlamento europeo i pagamenti in Italia. Diciamo che finalmente il decreto legge 35 del 2013 ha comunque sbloccato una situazione che era completamente assurda e anche di inciviltà, e si comincia a pagare. Il settore edile ha 20 miliardi da avere, 2/3 sono degli enti locali, 12 miliardi e 7 sono invece dello Stato. Diciamo che inizialmente finora sono previsti per il 2013 soltanto 7,5 miliardi e poi ce ne sono nulla per il 2014. Questa è la prima cosa che noi segnaliamo che non va. Bisogna dare continuità ai pagamenti finché non si esauriscono, ma non è che si può dire saltiamo l'anno prossimo. Anche la stessa Comunità Europea ci ha segnalato che da questo punto di vista c'è la loro disponibilità, che questa è una priorità, e quindi non ha senso per ragioni di conti pubblici pubblici di deficit non pagare alle imprese. La prima cosa è la massima continuità da dare ed è questo che diciamo più che la preoccupazione di elementi di non funzionamento della procedura. È vero che ci sono delle lentezze, però complessivamente, sapendo qual è la nostra efficienza italiana, io sarei soddisfatto di come la cosa è partita. Sì, ha ragione Buzzetti nel dire, ne abbiamo parlato l'altra settimana con il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani. L'Europa ha concesso all'Italia, una volta che l'Italia vedrà elevata la procedura di infrazione sul deficit, di conteggiare con un po' più di flessibilità il deficit che si creerà, perché lo Stato dovrà pagare, finalmente aggiungo io, per beni e servizi che le imprese hanno già reso. Fate conto che il 70% di questi ritardi dei pagamenti sono imputabili alle ASL, quindi al Servizio Sanitario Nazionale. Ma l'Europa, con l'accordo Tajani-Barroso, ha già concesso, Tajani-Olli Rehn, ha già concesso una maggiore flessibilità nel calcolare come deficit questi pagamenti che lo Stato dovrà fare. Ancora per quello che riguarda, una buona notizia ce l'abbiamo e arriva da Mirandola. Vi annuncio che Radio 24 farà un viaggio importante a un anno dal terremoto, e quindi 20 maggio e 29 maggio, ma da Mirandola apre il nuovo, a un anno esatto dal sisma, lunedì aprirà il campus biomedicale, un laboratorio scientifico che servirà a formare i futuri addetti del distretto. Mirandola è infatti il cuore del distretto del biomedicale italiano e anche uno dei più importanti a livello europeo, realizzato grazie alla Fondazione La Stampa Specchio dei Tempi di Torino, Comune di Torino e la Fondazione BNL. Oltre 2000 studenti delle scuole superiori, le cui sedi sono state danneggiate dai terremoti del 20 e del 29 maggio, hanno così a disposizione un nuovo laboratorio all'avanguardia. Ben venga il pragmatismo emiliano, ma non solo, su queste cose. Noi adesso andiamo nel vivo dei temi di questa puntata. Non posso però non dare ancora due notizie, visto che ce le chiedete. Com'è lo spread? Oggi è a 270 punti base, il differenziale con lo spread spagnolo con quello tedesco è a 300. Bene è andata invece l'asta di BTP a 30 anni, lanciato dal tesoro, 6 miliardi raccolti in fase di collocamento dalle banche che partecipavano, BNP, Citigroup, Deutsche Bank, UBS e Unicredit, hanno superato i 12 miliardi le richieste, quindi doppie rispetto alla disponibilità. Per quello che riguarda la borsa, adesso vi arriviamo, più 0,90% oggi, il Monte dei Paschi fa più 9,40% dopo la trimestrale, Mediaset più 8,90%, Fiat più 7,5%, Intesa San Paolo più 3,5, Fondiaria più 2,60, ST Microelectronics più 2,20, come Luxottica, Unicredit più 2,20, Mediolanum più 1,70, Exor più 1,50. Chi perde oggi? Soprattutto Atlantia meno 1,80, il Banco Popolare meno 0,90%. C'è poi un titolo, Gabetti, che guadagna l'8,80%, ne parleremo in diretta, perché è strano, insomma, che con i dati che abbiamo visto ieri del mercato immobiliare Gabetti salga così tanto. Un'ultima risposta a un ascoltatore: non è che l'Europa, che sia sufficiente che l'Europa stampi moneta come fa la Federal Reserve o la Bank of Japan e la crisi finisce. Faccio solo notare che l'area dell'euro è l'unica area geografica al mondo in cui ci siamo beccati una seconda recessione. Tutti hanno preso quella del 2009, ma tutti sono ripartiti. Noi siamo ancora con il double dip, con la seconda botta di recessione. Forse non serve stampare moneta, ma non serve nemmeno avere questa austerità maniacale sui deficit quando hai un'inflazione ai minimi storici e quando non mi sembra che il problema dei prezzi sia il problema europeo. Forse qualche iniziativa di carattere europeo per iniettare un po' di liquidità per opere utili, non per lasciare le cose come stanno, ci mancherebbe, ma per opere utili, per l'occupazione in primo luogo, servirebbe. Allora lì ragioniamo di politiche sulla defiscalizzazione, magari per i neoassunti, ragioniamo anche di politiche che permettono, nel caso dell'Italia, di pagare i debiti del passato o anche di fare opere infrastrutturali senza che vengano conteggiate direttamente nel deficit cattivo, come se fossero sprechi della pubblica amministrazione. E a questo proposito abbiamo anche qualche notizia oggi sulla crisi degli altri, ma soprattutto anche sugli sprechi. Devo dire che sono notizie piuttosto variegate, però un Rino Gaetano anche oggi. Abbassare, non sarebbe più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag e più. Allora, una notizia che riguarda indirettamente anche l'Italia: noi siamo invece, infatti, al numero uno al mondo nella produzione di carta igienica. Potremmo dire con uno slogan un po' fascista: l'Italia, anzi il mondo, utilizza l'Italia. Perché nel distretto di Pistoia Lucca, ma non solo, abbiamo la leadership a livello mondiale. Ebbene, perché riguarda l'Italia la notizia che sto per leggere? Perché il governo venezuelano del chavista, del successore di Chavez, Nicolas Maduro, ha deciso di fare lotta dura e senza paura al costo della carta igienica e inonderà il mercato venezuelano per far calare i prezzi con 50 milioni di rotoli di carta igienica, immaginiamo molti dei quali importati anche dall'Italia. Non c'è carenza nella produzione, ma c'è un eccesso della domanda a causa degli ossessivi acquisti della popolazione, frutto a loro volta di una campagna mediatica che punta a perturbare il paese. Ora, io capisco l'ossessione dell'accerchiamento, ma com'è che uno fa scorta di carta igienica a causa di una campagna mediatica che vuole creare paura? È vero che la paura qualche effetto ce lo può avere, ma insomma, dai, 50 milioni di rotoli, vogliamo saturare il mercato per tenere bassi i prezzi, e vabbò. Invece, questa notizia è a cavallo tra economia e società, perché insomma leggiamo anche le cose positive. È successo a Teramo: presa dalla disperazione e non aveva denaro per mangiare, una signora di 52 anni, incensurata, invalida e disoccupata, ha spaccato il distributore automatico di bevande all'interno del centro di igiene mentale di Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, e ha racimolato 80 euro. Fin qua, normale furto. I carabinieri l'hanno arrestata, però la cosa, a mio avviso, è interessante, se non edificante, è che poi, pur arrestata per furto aggravato e è in cella di massima sicurezza in attesa del processo per direttissima, i carabinieri hanno fatto una colletta in caserma per procurarle del denaro per mangiare. Altra notizia che, se volete, fa il paio con quella sulle badanti che abbiamo dato ieri, perché la crisi, tra i vari effetti che sta avendo la crisi dei consumi, fa anche calare il numero di presenze nelle case di riposo, tanto che il titolo è, insomma, la crisi tiene i nonni in famiglia, case di riposo sempre più vuote. Il direttore generale della AS 20 di Verona, del veronese, Maria Giuseppina Bonavina, ha segnalato come siano sempre più le famiglie in difficoltà che scelgono di tenere gli anziani a casa, preferendo averli vicini al dover pagare dei soldi in aggiunta alla pensione per farli stare nelle case di riposo. La presidente delle OSI di San Bonifacio, sono 10 case di riposo sparse per la provincia, sostiene: abbiamo difficoltà a riempire i posti letto, ci sono sempre meno anziani che arrivano nelle strutture e ci sono famiglie che li riportano a casa perché non ce la fanno a pagare la retta. Ora, la retta non è poca roba, sono circa 3.000 euro al mese, di cui metà coperti con la quota sanitaria regionale, se viene concessa, il resto con la pensione o dalle famiglie. Non è detto che sia sempre un male tenere i nonni a casa, Cioè non è che parcheggiare il nonno nell'ospizio fosse qualcosa così, a meno che uno non sia obbligato, ma Una notizia che non so se leggere come notizia della casta o come l'auspicio che sia il primo segnale, perché a me non interessa entrare, ci mancherebbe, nel dibattito sulle coppie gay, è tutto tranne che tema di questo programma, però non capisco perché alla Camera, per garantire a Ivan Scalfarotto di godere dell'estensione della polizza sanitaria al suo compagno Federico, alla pari di tutti i colleghi, cioè la polizza sanitaria che a lui si estende anche al coniuge o al convivente. Hanno votato sì PD, PDL e SEL, no Lega, Fratelli d'Italia. Il Movimento 5 Stelle si è astenuto perché è l'ennesimo privilegio. Perché cosa è successo? Che è stato riconosciuto alla Camera che non c'è differenza tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali. Se uno dei due conviventi però è un deputato, perché nel resto del paese invece non ti viene riconosciuta la possibilità di estendere il trattamento sanitario al tuo convivente se è gay. Allora, su questo decidiamo, è il primo passaggio verso un riconoscimento dell'estendibilità dei diritti anche alle coppie gay, va bene, fatelo presto e veloce, se no è un altro cavolo di privilegio della casta, per di più nel momento in cui avete il coraggio di votare sì su questo e no sulla legge a livello nazionale. La parentopoli però non è solo un principio italiano, voi non potete immaginare quanto godo nel leggere questa notizia, tanto lo sapete, perché 17 deputati regionali dei cristiano-democratici bavaresi, tra cui 6 ministri del Land della Bavaria, avevano le loro dipendenze mogli, mariti, fidanzati e figli. Si è scoperto a fine aprile che il capogruppo della CSU, Georg Schmidt, aveva assunto sua moglie come segretaria, con uno stipendio mensile di 5.500 euro. Lui già ne guadagnava 24.500 di euro, con un po' meno della cancelliera Merkel, lo ha calcolato la Süddeutsche Zeitung. Ed era una ventina d'anni che andava avanti con questa storia. Altri 16 colleghi di partito assieme a Schmidt, tutti salvati i contratti preesistenti alla legge. È una legge del 2000 che proibisce ai deputati di tenere i familiari nel libro paga. Ogni parlamentare, infatti, del Land ha 7.500 euro disponibili per i propri collaboratori. Si è dimesso comunque Schmidt e anche il presidente della commissione bilancio, Georg Winter, i cui Georg Winter aveva nei suoi uffici un contratto di collaborazione con i figli che hanno 13 e 14 anni. Ora, poi non dite che la fantasia è solo dei latini, perché che cavolo di collaborazione fai fare a un figlio di 13-14 anni? Non lo so. E invece ancora al suo posto Dorothy Barr, vice segretario dei Cristiano Democratici, che ha tenuto come assistente fino al gennaio 2006 l'uomo che poi diventò suo marito, e da lei lavorava anche la compagna del padre. Sempre più complicata questo legame della parentela. Comunque, chiudiamo in bellezza con il nord, con la regione Liguria, perché insomma c'è un consigliere alla regione Liguria, Franco Rocca del PDL, che ha strane spese. Qua siamo sempre alle spese dei gruppi consigliari. Allora, al consigliere regionale Franco Rocca non manca il buon gusto, fatto di cibo e arte, perché le ricevute che ha portato per i rimborsi prevedevano i pasticcini di Ferragosto, le cene agli stabilimenti balneari Zoagli, 16 coperti nel 2010, 600 euro, il formaggio San Ste della Val d'Aveto, sempre rimborsato dai contribuenti, e poi un'abbondante fornitura di selvaggina, 200 euro di selvaggina, fagiani, bianco il fagiano, acquistati da un cacciatore di Alessandria, regolarmente fatturati, e poi era stato lui a dilettarsi nello shopping nella galleria d'arte San Camillo di Rapallo, dove glielo contesta il sostituto procuratore Francesco Pinto, che gli contesta come improprie acquisti e spese, tra cui un quadro da 350 euro che poi ha regalato nel 2011 al governatore Burlando, e poi voglio dire, va bene tutto, e i fagiani, il quadro, gli stabilimenti balneari, il formaggio San Ste, ma perfino i biglietti della Lotteria Italia, 20 euro di rimborsi a carico della regione. Ho capito che siete in Liguria, ma perfino i biglietti della Lotteria Italia. Vabbè, mi sembra che dai fagiani si sia passati per il consigliere Franco Rocca a altro tipo di volatili. Nights again. 17:38 minuti, ci dia per favore buone notizie. Ma avete sentito il meteo? Arriva finalmente la perturbazione. Qua, più che mettere un po' di funky, cosa possiamo fare? Ma sì, una buona notizia c'è, la ricordavo prima, tutte le aste del debito italiano stanno andando bene, anche quelle gestite come BTP a 30 anni, insomma, comprare debito italiano per 30 anni è un segnale di fiducia, una richiesta doppia rispetto all'offerta e quindi insomma va bene, anche se il collocamento era tra istituzionali, come si dice in gergo, quindi per le banche. Qualche buona notizia arriva oggi dal mercato, perché nella trimestrale del Monte dei Paschi è arrivata la notizia che la perdita c'è e ci mancherebbe, però è inferiore alle previsioni, non 154 milioni come si attendevano gli analisti, ma 100 milioni di euro, e il portafoglio titoli derivati va a 38 miliardi di euro, meno 1,1%. Il numero uno, che sarà a breve di nuovo nostro ospite, Fabrizio Viola, l'amministratore delegato del Monte dei Paschi, ha detto: da qui alla fine dell'anno lavoreremo a pancia a terra per rimborsare gli interessi del tesoro sui Monti Bond. Cosa succede? Che se Monte dei Paschi non rimborsa i soldi che ha avuto dal tesoro, in sostanza vengono convertiti, questo prestito viene convertito poi in azioni, quindi il tesoro diventa azionista del Monte dei Paschi. E infatti il Monte dei Paschi guadagna 9,40%, non è l'unico titolo che sulla base dei conti guadagna tantissimo, c'è anche Mediaset più 9% anch'essa. Allora ciao Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Monte dei Paschi e Mediaset. Monte dei Paschi, come dicevi tu, è stata una giornata importante oggi con una trimestrale che è andata oltre le attese degli analisti e dunque un'ondata di acquisti a Piazza Affari anche con volumi sostenuti, dando infatti uno sguardo alla media dell'ultimo mese, sono passati di mano pezzi pari a 7 volte appunto questa cifra, quindi scambi decisamente forti con operatori che sicuramente hanno preso in seria considerazione quelle che sono state le parole dell'amministratore delegato Fabrizio Viola. Per quanto riguarda Mediaset, anche qui lo stimolo e propellente agli acquisti è stata la trimestrale di ieri, trimestrale che ha visto un reale taglio dei costi da parte dell'azienda, come tutte le aziende editoriali deve fare i conti con un calo dei ricavi, un taglio dei costi che ha portato anche a un EBITDA, un utile oltre quelle che erano le previsioni del mercato, e quindi importanti acquisti. Ricordiamo che ieri il titolo aveva comunque perso terreno. Sì, c'è un ascoltatore che dice: la perdita del Monte dei Paschi è minore delle aspettative perché sicuramente avranno truccato i conti. Guardi, adesso, non lo so ovviamente, però mi sento di dire che nella gestione Viola Profumo, a loro, come hanno fatto devo dire fin da quando sono arrivati, conviene molto di più mostrare tutti i conti in trasparenza per poi iniziare a mettere mano al risanamento, cioè anche come scelta, diciamo così, tattica ai nuovi vertici del Monte dei Paschi conviene mostrare la polvere sotto il tappeto, come ci ha detto Viola in quell'intervista, più che nasconderla ancora, perché sennò poi verranno accusati e responsabilizzati loro di questo, quindi non penso che ci sia nessun interesse nel abbellire, mettiamo i conti, diciamola così. Bene anche Fiat e Intesa San Paolo, Fiat più 7,60, Intesa più 3,40. Fiat torna ai massimi da agosto 2011, qui c'è già ieri si era manifestato questo trend, c'è comunque un buon andamento del settore auto europeo, trascinato sia da alcuni trimestrali sia da quelle che sono le attese per i dati sulle immatricolazioni europee di aprile, che saranno diffusi tra due giorni. Le attese in questo senso del mercato sono finalmente di un piccolo rialzo, qualcosa di poco inferiore al 2%, un rialzo che viene da mesi di profondi ribassi, ma che dovrebbe essere raggiunto soltanto grazie all'effetto Pasqua, così lo chiamano gli operatori, perché ci sono stati rispetto all'anno scorso uno o due giorni di lavoro in più appunto ad aprile. Comunque può essere interpretata come una piccola inversione di tendenza e quindi ci sono degli acquisti in borsa. Intesa San Paolo sale ancora in scia la trimestrale di ieri, trimestrale che si era rivelata superiore all'attesa, poi c'era stata anche un'indicazione su sul dividendo, che sarà almeno pari a quello distribuito quest'anno, e quindi ancora acquisti. Allora, Atlantia invece, ex Autostrade per Italia, meno 1,5%, qui ci sono movimenti sul capitale di Gemina, no? Eh sì, a breve, come sappiamo, ci sarà la fusione tra Atlantia e Gemina nell'ambito di un più ampio riassetto appunto delle partecipazioni infrastrutturali che fanno capo alla famiglia Benetton. Il fondo di Singapore, Change appunto, ha deciso di uscire dal capitale di Gemina, in cui deteneva il 5%, di fatto quindi non riceverà azioni Atlantia, ha preferito liquidare prima la posizione. Come spesso accade in questi casi, quando c'è un collocamento in borsa il titolo poi ne risente. Per quanto riguarda la stessa Atlantia, in più questa mossa di Changi può essere forse interpretata come un segnale di una non totale fiducia in quello che è il progetto poi appunto di integrazione delle due società. Bene, sì, mi fate partire la base così. Vabbè. Bene, si è mossa anche Fondiaria Sai più 2,40%, ST Microelectronics più 2,35%, Luxottica più 2,20%, Unicredit più 2,14%, Buzzi Unicem più 1,80%, Mediolanum più 1,80% anch'essa. Cos'è, una moral suasion per farmi usare sta base quando la borsa cresce? Vabbè, iniziamo a distinguere anche tra basi. Invece, migliori e peggiori. D-Mail Group meno 4,70, Ross meno 4,20, primi sui motori meno 3,70. Migliori High Real. Cosa fa High Real? Cioè, lo sai? Sinceramente no, tu lo sai? No, se no te lo chiedevo, è un gioco a due. Allora, High Real, 600 titoli, è un po' duro. Lo so, più 9, no, ma ogni tanto ne scoprono più 9,96%. Qualcuno me lo scriva al 349-238-6666 o andiamo a cercarlo noi. Mediaset diciamo più 9, Fiat abbiamo detta, c'è un titolo, Indesit più 5,50, c'è un titolo di cui parleremo dopo il traffico, che è Gabetti Property Solution, che ha fatto un botto più 8,20%, nonostante il mercato dell'auto, buonanotte, il mercato della casa vada male come abbiamo raccontato ieri. Grazie intanto a Ceo Condina, Radio Cori sulle 24 ore. Adesso andiamo sul traffico, poi parliamo con il numero uno di Gabetti, appena ce l'abbiamo in collegamento devo leggere un sms che un po' di ottimismo lo mette. Allora, c'è un ascoltatore che sostiene che il traffico del grande raccordo anulare di Roma funzioni come segnale sull'economia, un po' come il Baltic Index per il trasporto marittimo. Vabbè, ci sta. E dice, secondo me il PIL nel secondo trimestre migliorerà perché vedo che il traffico del grande raccordo anulare sta aumentando. E noi siamo qui a raccontarlo, con lei, col grande raccordo anulare, con l'astrologa. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo del titolo Gabetti in borsa, che ci ha incuriosito oggi, perché appunto ieri abbiamo fatto un approfondimento sul crollo del mercato immobiliare, con dati mai così bassi dall'85. Allora siamo in collegamento con il presidente del gruppo Gabetti Property Solution, Fabrizio Prete, buonasera. Buonasera. Quasi il 10% di rialzo oggi, nonostante il dato complessivo sul vostro settore, il mercato immobiliare di ieri fosse drammatico, insomma non si comprano case, titolavano oggi molti giornali, e abbiamo compravendite scese al livello del 1985, e quindi ci siamo mangiati 28 anni diciamo. Ma dall'altro lato voi avete approvato i conti del 2012 ieri e la perdita netta è consolidata e in crescita a quasi 45 milioni di euro contro i 31 milioni e 700 mila euro del 2011. È vero che avete avuto accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, cioè avete fatto un po' di pulizia per 42 milioni di euro, ma lei come se lo spiega un andamento così forte del titolo appunto all'indomani di questa fotografia cupa sul settore e comunque anche di un aumento del vostro indebitamento? Ma direi che le motivazioni sono sostanzialmente due. Ieri il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio al 31/12/2012 sulla base dell'orientamento positivo da parte del ceto bancario sulla ristrutturazione del debito, che peraltro si basa anche su un aumento di capitale degli azionisti, e questo sono sicuramente due notizie importanti, perché vuol dire che sia il ceto bancario che piuttosto che in particolare l'azionista di maggioranza assoluta crede nella società e nelle sue prospettive. Prima motivazione. La seconda motivazione, ritengo che i conti del primo trimestre 2013, che segnano una netta inversione di tendenza rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio 2012, possono rappresentare una buona notizia per gli investitori. Noi siamo passati da una perdita di più di 1 milione di euro a livello di EBITDA nel primo trimestre 2012 a un EBITDA positivo per circa 0,5 milioni di euro nel primo trimestre 2013. Ecco, questo per quello che riguarda i vostri conti, però non sfugge la preoccupazione adesso al di là di Gabetti per quello che è il mercato immobiliare. Voi qui, venendo non tanto alla fotografia di insieme, ma quello che voi vedete come Gabetti Property Solutions, avete notato, cioè vi ritrovate nella fotografia di ieri, oppure poi ogni operatore fa storia a sé? No, purtroppo i dati del mercato sono sotto gli occhi di tutti, sicuramente un mercato in sofferenza. Un mercato in sofferenza per quello che riguarda il numero delle transazioni, un mercato in sofferenza anche per quello che riguarda il valore delle transazioni, perché sicuramente c'è una flessione dei prezzi, anche se forse potrebbe essere più marcata, nel senso che uno dei motivi per cui il mercato stenta forse a riprendersi anche perché le valutazioni forse necessiterebbero di una correzione al ribasso un po' più marcata. Cioè, tradotto, vuol dire che prima di vendere a prezzi più bassi la gente fa resistenza, le stesse agenzie immobiliari, e quindi le compravendite diminuiscono perché si allungano anche i tempi. È chiaro che quando tutto il mercato non riparte perché i prezzi restano vischiosi, direbbero gli economisti, verso l'alto, cioè scendono con più difficoltà. Esattamente. Direi che però questa è una situazione che credo che in parte si possa pensare che nel corso dell'anno ci possa essere un riassorbimento. Noi comunque i dati di mercato che sono stati pubblicati li confermiamo, nel senso che noi li tocchiamo con mano. Abbiamo la fortuna di operare però in tanti ambiti dei servizi immobiliari e fortunatamente riusciamo anche a compensare con alcune attività le performance. Magari nell'intermediazione immobiliare stiamo comunque soffrendo, per quello che riguarda servizi a maggior valore aggiunto, in particolare valutazioni, perizie, due diligence, stiamo performando molto bene. Sì, voi fate anche la consulenza, diciamo, non solo l'atto. Sì, ecco, mi dica una cosa però, nella parte immobiliare, ieri alcuni ospiti che avevamo dicevano: attenzione, perché poi questa media, meno 4,4 soprattutto dell'ultimo trimestre, nei prezzi parlo, rispetto all'ultimo trimestre 2012, e il meno 2,2 su base annua, rischiano di essere la media di Trilussa, perché in alcuni casi abbiamo cali del 10, 15, 20%, in altri non ci sono cali, addirittura un leggero rialzo. Allora, dal vostro punto di vista, dove... è la stessa domanda che ho fatto ieri, ma interessa molto ai nostri ascoltatori. Dove notate le svalutazioni di prezzo più forti, cioè quali tipologie di abitazione, e dove invece vedete che il mercato ha tenuto? Ma direi che partiamo da quest'ultimo. Il mercato sicuramente è tenuto negli immobili di maggior pregio e gli immobili posizionati in particolare anche nelle città principali, mi riferisco soprattutto a Roma e Milano. C'è la zona centro, semicentro delle grandi città, posso dire così? Sì, diciamo così, direi che gli immobili, l'investimento immobiliare in alcune zone particolari tipo Roma e Milano, in centro, semicentro, rappresenta ancora un bene di investimento con una buona resistenza anche nei periodi negativi. Differentemente, immobili più periferici chiaramente hanno sofferto di più, sia per quello che riguarda le città in generale, sia per quello che riguarda il paese. Ci scrivono gli ascoltatori: le seconde case invece, IMU, non IMU, sembrano invece resistere sui prezzi, risulta anche a voi? Mare, ma guardi, montagna. Per quello che riguarda le seconde case, credo che forse è più un ragionamento che si ricollega a quello che si diceva poc'anzi. Le transazioni a volte non avvengono perché la distanza tra la richiesta di chi vende rispetto a chi è disponibile ad acquistare a volte è ampia, le transazioni non si concludono e di fatto si fa più fatica a formare dei prezzi di mercato, e quindi c'è anche un effetto apparente di tenuta rispetto a quello che effettivamente potrebbe essere. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sta spopolando l'iniziativa, chiamiamola così, o meglio le segnalazioni sul traffico. Dopo quello che ha scritto un ascoltatore, il traffico sul grande raccordo anulare è un po' il nostro Dry Baltic Index per le merci. Molti segnalano, tassisti, camionisti, automobilisti, che in varie parti del paese, la tangenziale di Milano, il nodo con Bologna, Roma, il traffico è un po' in aumento. Per carità, nessuno vuole da questo derivare indici macroeconomici, però insomma anche un atteggiamento empirico non è male. Non capisco la polemica di chi dice: ma con quello che è successo ieri e in questo fine settimana lei parla di traffico in aumento. A chi pensa che interessi si vergogni. Mi vergognerò, cosa devo fare? Ma insomma, invece secondo me è un dato interessante. Abbiamo visto nei momenti peggiori della recessione crollare il traffico anche e soprattutto merci. Comunque, visto che parliamo dato economico, come annunciavo all'inizio del programma, oggi l'Unione Europea, Eurostat, ha diffuso i dati sui primi tre mesi dell'anno e insomma quello che era una sensazione è ora una certezza. Siamo entrati nel 2013 con il freno a mano tirato, tutti i paesi, tutti, perché anche la Germania ha fatto più 0,1% rispetto al trimestre precedente in cui aveva fatto meno 0,7, la Spagna ha fatto meno 0,2 rispetto al trimestre precedente, l'Italia meno 0,5, la Spagna meno 0,5, scusate, la Francia meno 0,2, Olanda meno 0,1, Finlandia meno 0,1, Portogallo meno 0,3%. E la cosa che preoccupa sull'Italia è che a questo punto, con il meno 0,5% archiviato, il calo già acquisito nel 2013, cioè se, ripeto, i prossimi trimestri fossero invariati, sarebbe un calo dell'1,5%. E la cosa che a me ha fatto ancora più impressione è che questo trimestre, quello che si è appena chiuso, è il settimo trimestre consecutivo di calo della nostra economia. Non era mai successo dal 1990, da quando esiste la serie storica, da quando misuriamo l'andamento dell'economia trimestre per trimestre. Anche di questo ha parlato il ministro del Lavoro Giovannini in audizione alla Camera, ha detto appunto: sono preoccupato dai dati che oggi ha diffuso Eurostat. Ascoltiamo questo passaggio. La dimensione di questi problemi ci fa capire che la crescita è indispensabile, l'Europa è indispensabile, le condizioni interne sono assolutamente necessarie per sfruttare quello che in un linguaggio velico ho detto tutti i possibili refoli di vento che in questo momento potrebbero aiutare la nostra economia a crescere di più. Vorrei anche sottolineare che la forte eterogeneità del nostro sistema produttivo tra grandi e piccole imprese, imprese attive sui mercati internazionali che stanno andando abbastanza bene mentre quelle sui mercati interni sono molto più in difficoltà, ci fanno capire quanto variegata è la condizione del nostro sistema produttivo. Quindi, se vogliamo sfruttare tutte queste opportunità, abbiamo bisogno di più strumenti. Non è un solo strumento che consente in qualche modo di soddisfare tutte le esigenze. Oggi in audizione alla Camera anche il ministro dello sviluppo economico Zanonato, il quale ha detto, per quello che riguarda l'IMU, che il governo sta studiando un intervento anche per i capannoni industriali. Abbiamo, come solo 24 ore, scoperto aumenti tra il 50 e il 200%, ne abbiamo parlato in questi giorni con la nuova rata dell'IMU per capannoni industriali, alberghi, ristoranti e quant'altro, esercizi commerciali, 1,5 miliardi stimato. Zanonato ha aggiunto: l'importo complessivo chiaramente varia a seconda della platea di esenzione dall'IMU, a cui vogliamo rivolgerci. Nel frattempo arriva anche un allarme da Federturismo, dove il presidente Renzo Iorio ha detto che per un albergo a 4 stelle di 100 camere in centro a Milano, solo di IMU raggiungeremo quest'anno i 100.000 euro. Ma restiamo sui temi della crescita o non crescita economica, perché dicevo, non c'è solo l'Italia, c'è la Francia che è entrata tecnicamente in recessione, perché è il secondo trimestre consecutivo che cala il suo PIL, e c'è una Francia dove il potere d'acquisto delle famiglie è calato a livello record nel 2012, meno 0,9%. Il presidente francese François Hollande ha detto: la situazione è grave, ma la recessione è meno profonda rispetto al 2008 e al 2009. Ho capito. Però Hollande ha anche detto: non c'è nessun asse con l'Italia contro la Germania, lavoreremo, sarebbe un contro l'interesse dell'Europa e della stessa Italia e Francia creare un'alleanza contro la Germania. Con il Premier Letta lavoreremo con uno spirito costruttivo nell'interesse dell'Europa. Intanto in Germania si è raggiunto un accordo tra imprese, sindacati e metalmeccanici per un aumento dei salari del settore, più 3,4% l'aumento dal 1 di luglio e poi un altro 2,2% dal 1 maggio 2014. In una Germania che ha difficoltà a trovare manodopera, difficoltà enorme a trovare manodopera di qualunque tipo, oggi lo segnalano varie fonti tedesche, insomma, c'è un altro elemento che a me, lo dico senza troppa polemica, ha impressionato, che anche questa volta facevamo prima a giocare a dadi che a dare le previsioni economiche. Perché lo dico? Perché un anno fa esatto, quindi ad aprile del 2012, il Fondo Monetario Internazionale stimava per l'Italia un meno 0,3% e già siamo a un meno 1,5%. Questo Fondo Monetario, l'OCSE, stimava addirittura a marzo del 2012 un più 0,5% nel 2013 per l'Italia, e ripeto, invece per ora siamo già a meno 1,5%, e lo stesso governo stimava uno 0,5% per l'Italia nel 2013. Allora, tra stimare una debole ripresa e invece una ben definita recessione, secondo me ce ne passa. Chiedo lumi a Fabrizio Galimberti, che era un po' che non ospitavamo, editorialista del Sole 24 Ore, l'uomo che ci ha spiegato l'economia in tempi non sospetti. Buonasera Fabrizio. Buonasera, buonasera a tutti. Adesso con questa introduzione non me ne ti ho riempito di un alto carico. Allora, poi veniamo ai dati di oggi. Ma è possibile che un anno fa, ad aprile, nessun istituto mondiale avesse avuto l'avvisaglia che il 2012 sarebbe stato ben peggio delle attese, con una frenata che, ripeto, non è solo italiana, non è solo dovuta alle manovre del governo Monti? La Germania ha frenato nel 2012, la Francia, la Finlandia, l'Olanda stessa, seppur meno 0,1%. A che servono queste previsioni? Sai, qualche bello spirito ha detto che le previsioni sono sempre difficili, specialmente quando riguardano il futuro. Eccoci. E quindi il futuro, purtroppo in questa crisi anomala, perché ricordiamoci che siamo in acque inesplorate, siamo oramai dal 2008, siamo infognati in una crisi quale non si era verificata dagli anni 30, e direi di più, che se noi mettiamo a confronto l'andamento del PIL degli anni 30 in Italia e l'andamento del PIL lungo lo stesso periodo, un analogo periodo odierno, vediamo che abbiamo fatto peggio, stiamo facendo peggio di quello che è successo nei famosi anni 30. Quindi c'è qualche cosa. Sì, pur partendo da basi di ricchezza ben diverse, cioè quella era un'economia italiana agricola, quello, sostanzialmente, diciamo, con un 70% di analfabetismo femminile, insomma, tutta un'altra Italia. Però, diciamo, come dato di distruzione di ricchezza o di minor crescita, decrescita, siamo peggio anche del 29, se si guardano le serie storiche. Esatto, e quindi dato che siamo peggio, vuol dire che siamo in come le vecchie cartine dell'Africa, no? Dove in mezzo non c'era niente, c'era solo scritto Hic sunt leones, e qui ci sono i leoni con un bel disegnino del re della foresta. Quindi noi siamo in territori inesplorati, non sappiamo dove svoltare, non sappiamo quando svolteremo, e è normale anche psicologicamente, perché dopo tutto quello che i previsori sono uomini e donne, quindi sono gente che specie quando si trova in acque profonde cerca sempre di farsi coraggio. Sì. Nessuno ama dire le cose andranno peggio e quindi ci si aggrappa ad ogni fuscello. Sì, però in questo modo, Fabrizio, si creano anche delle illusioni, se no tanto vale che io inviti l'astrologa ogni volta. Dopo il traffico, visto che tu hai scritto un bellissimo libro, era Economia e Pazzia? Esatto. Sulle crisi, sulla storia delle crisi, quella era più sulle bolle, dalla bolla dei tulipani allo scandalo scozzese e quant'altro. Però insomma, dopo vorrei capire, dal tuo punto di vista, perché tu vivi tra l'Italia e l'Australia, che cosa sta mancando l'Europa? Perché una cosa non abbiamo detto, cioè questa seconda recessione sta colpendo solo l'area euro. La Gran Bretagna oggi è l'unico paese che ha un più 0,5% nel PIL, sarà un caso, ma non appartiene all'euro. Nel resto del mondo le borse, ma non solo, anche l'economia è tornata a crescere moltissimo. Allora, che cosa manca in questo momento? ...18:21, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. Dunque, Fabrizio, sono d'accordo con chi scrive che non è una vera e propria crisi questa, è un cambio strutturale di paradigma, una trasfusione di ricchezza dall'Europa all'Asia, altri paesi, ci siamo. La crisi non dura così tanto, una crisi, ho fatto l'esempio ieri, immaginate tra moglie e marito, una crisi per 6 mesi, una crisi, un anno, una crisi, 4 anni non è più una crisi, è una separazione, un divorzio, è un'altra cosa. Però che cosa manca all'Europa per rimettersi nei binari della crescita mondiale? E soprattutto, visto che non te l'ho mai chiesto in questi mesi, sei dell'idea che a questo punto l'austerità e basta abbia segnato il passo, abbia mostrato tutti i suoi limiti con un'inflazione ormai ai minimi storici? Sì, come dicevi tu, l'Europa è in crisi, ma altri paesi, per esempio l'America, ed è proprio dall'America che si è originato questo sommovimento dell'economia mondiale, quindi avrebbe dovuto essere colpita più degli altri, ma è stata colpita molto, però meno degli altri, e soprattutto sta uscendo adesso da questa prostrazione, mentre invece noi non ne usciamo ancora. Allora tu dici, qual è la differenza? La differenza sta soprattutto in due aspetti. Intanto le politiche economiche, che negli Stati Uniti sono state meno austere che da noi, la politica monetaria è stata più coraggiosa e più tempestiva, ha affondato, diciamo, la spada dell'espansione dell'espansione monetaria con maggior vigore, e quindi è riuscita a fare incamminare il gran corpaccio dell'economia statunitense verso una ripresa che, a mio parere, sta acquistando anche adesso maggiore consistenza. In Europa invece questo non è successo. Perché non è successo? Non è successo perché in Europa, per far succedere le cose, bisogna mettere d'accordo un certo numero di paesi, e al centro dell'Europa, il cuore e il motore dell'economia europea è la Germania, che purtroppo ha questo atteggiamento molto tedesco di governante severa, che vuole punire coloro che hanno fatto male, hanno lasciato andare avanti deficit e debiti, e quindi questa punizione impedisce all'economia di riprendersi, e si ripercuote anche contro la Germania stessa, perché alla fin fine la Germania esporta moltissimo nei paesi dell'Eurozona. Quindi la Banca Centrale Europea, sotto la guida sapiente e illuminata di Mario Draghi, ha fatto molto, ma non ha fatto quanto avrebbe potuto fare, proprio perché anche all'interno altri vincoli, certo. Ci sono dei vincoli, e anche qui si tratta di mettere d'accordo tanti paesi diversi. Allora, Fabrizio, visto che tu hai studiato appunto le crisi nella storia dell'economia, e le hai studiate a lungo, immaginiamo che nel 2014 finalmente arrivi il segno più, ogni anno spostiamo l'asticella l'anno dopo, però arrivi il segno più e si possa dire che tecnicamente questa seconda recessione, questo double dip, è finito. Che mondo troveremo? Perché io ho la sensazione che qua tutti si attendono, vai, finirà prima o poi la crisi e torneremo come nel 2007. Beh, diciamo non torneremo nel 2007 perché fra il 2007 ed adesso si è consumato uno storico sorpasso, l'altra metà del mondo, i cosiddetti paesi emergenti, oramai stanno andando oltre il 50% dell'economia mondiale, quindi e fra l'altro dobbiamo ringraziare questi paesi perché hanno fatto un po' da traino dando mercati di sbocco alle economie dei paesi di vecchia industrializzazione, però certamente ci troveremo in una situazione in cui il potere economico è stato rimescolato, in cui ci troveremo a dover prendere delle decisioni in cui dall'altra parte del tavolo, con uguale potere negoziale, siederanno altri protagonisti dell'economia mondiale. E chiaramente con un asse completamente spostato da quella parte. Ultima domanda che ho per te, invece, torniamo al presente breve. Nel giorno in cui tra l'altro l'OCSE fa sapere che con i primi tre anni di crisi, 2008, 2009, 2010, le disuguaglianze economiche dei paesi OCSE sono cresciute rapidamente, per cui che il 10% della popolazione più ricca nel 2010 aveva un reddito 10 volte superiore a quello del 10% più povero, mentre nel 2007 il rapporto era solo di 8 volte, quindi la crisi ha punito tutti ma ha colpito di più, come ricordavamo in questi giorni, i ceti meno abbienti, l'inflazione ha eroso più potere d'acquisto lì e anche il crollo del mattone va a colpire di più chi ha case tra virgolette modeste, non chi ha gli appartamenti di pregio o i palazzi di pregio. Detto questo, secondo te, lo chiedo a tutti gli ospiti, un cambiamento di passo in Europa potrà arrivare dopo la sostanzialmente le elezioni tedesche di settembre? Ma io penso che già adesso ci sono le avvisaglie nella stessa Germania che l'austerità è andata troppo oltre e bisogna cambiare registro. In effetti, anche se le dichiarazioni ufficiali sono di un forte colore elettorale, continuano a essere nel senso del rigore, però se uno guarda agli atti e non tanto alle dichiarazioni, allora credo che sia già in atto un cambiamento in questo regime di super austerità che diventerà meno super e più comprensivo verso le ragioni dell'espansione. Quindi sei cautamente possibilista se non ottimista. Grazie Fabrizio Galimberti, sei ancora in edicola, io vi raccomando, qualcuno mi dice ma perché non indica qualche libro? Beh, Economia e pazzia era un bellissimo libro, no? Casa editrice La Terza, ancora in edicola? Boh. Sì, ancora in edicola. Poi facciamo metà sulle royalties. Grazie a Fabrizio Galimberti, da Sebastiano Barigioni veramente tutto, noi ci risentiamo domani con un'altra puntata dalle 17 in poi di Focus Economia. Intanto, comunque vada, ma il tempo permettendo, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.